sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu è curato becchino da parenzo, eh. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera, Peppe. Amarezzo, tu detto al cervello, c'hai tu criceti che giocherà a nascondino, l'anima degli mortacci tua. Inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani, inani. Parenzo, minchia, l'avvocato penso che ti incula, l'avvocato Ciucco te la butta nel culo. Picchi di vaga fottata a vicenda, tu hai idda idda a tea, l'avvocato Ciucco, è vero Parenzo? Sei un gran frocione, un finocchiazzo ingranato. Te la ricordi la tua prima raccomandazione? Te la ricordi la tua prima raccomandazione? Tuo papà te l'ha dato il libricino nero? Tuo papà te l'ha dato il libricino nero? Un pensiero speciale rivolgo ai lavoratori di Ski Italia. Il Papa non è che deve tirare fuori i soldi per salvare Sky o salvare Almaviva o salvare qualsiasi altra azienda. Poi come ti permetti di dire che il Papa ha vestito come uno spaventamasseri? Perché adesso non ho più paura dei nani. E non permetto a nessuno di parlare male del Papa, capito? Sarai te vestito come uno spaventamasseri, non lo sei vestito come spaventamasseri perché ti puoi permettere. Ciao, va, moriamo, ammazzato. Allora, caro Parenzo, si è rifatto vivo, si è rifatto vivo dopo questa stupenda copertina, si è rifatto vivo anche il nostro amico Polegato. Te lo ricordi, signor Polegato? Come dimenticare quell'adorabile idiota? Scusate, c'è stata la parola adorabile, scusate. Ristoratore friulano, se non sbaglio. Dove si trova Sequals? Dove cazzo? In Friuli? Dove si trova? Sì, in Friuli. Ristoratore friulano, fascista, molto fascista. No, è semplicemente un idiota, dai. Vabbè, ma adesso perché dovrebbe essere un idiota? Dai, è matto, è mattoide. Ah, ecco, è un mattoide fascista. Sì, comunque sì. Si è rifatto vivo, dice che si vuole ricandidare. Ah, però. E vabbè, sentiamo. Ma è una notizia importantissima. Hai fatto bene ad aprire la trasmissione con ma questo. Ma non c'è problema, apertura e chiusura, è uguale. Comunque uguale. Sentiamo una breve sintesi di questo comizio, di questo Churchill friulano. Di questo comizio ottenuto naturalmente in camicia nera con tanto di stato di Mussolini. Puttana. Che è successo? Che è tutta successo? L'acqua è caduta qua, tutta l'acqua sulla tastiera. Mamma mia, allora, solo per dirvi che noi saremo a Maniago con la lista del Balton. Noi non porteremo la frutta a tutti. Cerchiamo solamente qualcuno che ci venga a dare una mano. Ci mancano due o tre per mettere in lista. Solo persone di destra. Solo persone che dicono che il capo dello Stato è un mafioso. Solo persone che dicono che Alfano è un pezzo di merda. Che Napolitano sarebbe, se non nasceva, sarebbe stato meglio. Se avete bisogno di ribellarvi, noi siamo qua. A Maniago il ribalton partirà. Viva l'Italia e viva il Duce. Non riuscivo a prendere sogno. Cosa ha detto? Viva il Duce alla fine. Sì, viva il Duce. Cioè, ma secondo si te può mandare un'ambulanza lì immediatamente? Secondo te è da arrestare questo qua? Secondo no, te è da arrestare? Arrestare no, da mandare, da condannare, mandare i lavori socialmente utili, cioè a pulire il sedere ai migranti al centro di Lampedusa. ma cosa? Ma perché al centro di Lampedusa i migranti? Deve andare a pulire. Ma i perché non alle anziane italiane al limite? No, scusa. No, deve andare lì perché deve capire. No, no, deve andare proprio lì. Deve andare a Lampedusa, nel centro di permanenza temporanea. A pulire il culo ai migranti. A pulire, sì, non ne hanno bisogno perché si puliscono da soli. Ma lui lo deve adesso fare. Loro devono andare lì, si mettono così fuori e dicono allora polegato e lui va lì e pulisce. Deve fare come i nobili. Come i nobili. Deve fare il bidet ai migranti. Il bidet ai migranti deve fare. Bisogna vedere se se lo fanno il fare. Il bidet ai migranti. Bisogna vedere se infatti, se lo fanno fare. Perché sono persone per bene, gli fa schifo essere toccati da uno come quello lì. Ma lui, condannato. Persone per bene, che ne sai. Lui deve andare altri, lì no. E passare un mesetto almeno, 30 giorni almeno, sì, lì dentro e fare il bidet ai migranti. Allora ragazzi, passiamo ad altro. Succede vicino, sì, Lecce, che un tizio che si chiama, sì, Luigi Marzo, sì, eredita una masseria. Questa Luigi? È l'Italia di Marzo, che cazzo che è? Luigi Marzo, un signore, un pensionato. Beh, è giusto parlare di questo in questo mese, anche giusto, venerdì. Va bene, sì, ma questa non fa ridere. Ma no, non è che tante cose fanno ridere. Marzo o Malzo si chiama? No, con la L. No, no, con la R, con la R. Malzo, Malzo no, no c'è. No, dottore, no. Malzo non c'è. Malzo non c'è. Molti dicono che facendo il filippino in realtà sei, sì, sei razzista. Ma che c'entra? Sì. Vabbè, comunque, sì, sì. Un tale pensionato, Luigi Marzo, vicino Lecce, eredita una masseria. E fin qui tutto normale. Paga le tasse di successione, circa 20.000 euro. Questa masseria, nel frattempo, mentre si fanno le pratiche burocratiche, viene occupata dai rom, che diventano prima 6, 7, 8, 10, 20. Ma che fai così? Perché se occupassero, no, casa tua, se occupassero, ma casa, certo, tua, cosa, certo, faresti? Certo, faresti l'inferno. Ma sarei arrabbiato. No, certo, ma bisogna sgomberare. La cosa incredibile è che non se ne vanno coi ragazzini. Perché bisogna siccome ci sono Sono d'accordo con te. Guarda un po', sono d'accordo con te. Sentiamo questo Marzo. No, tu protesti, sbuffi perché fare una cosa contro i rom. Perché, ma no, contro. Ma quelli sono dei criminali che hanno occupato la casa senza averne diritto, devono andare via. Ma è evidente, ma quante notizie. Mamma mia. Ah, tu dici che si scelgono apposta le notizie per andare contro i rom? No, amico. Ma no, ma per carità, dai, dalla vostra parte. Insomma. Il messaggio che lasciano passare è quello che ciascuno può fare i comodi propri. Possono entrare, invadere, possono fare quello che vogliono. Tutte le denunce non è stata fornita nessuna risposta, di nessun genere. Questa vicenda e faccenda dimostra che lo Stato di diritto in Italia non c'è. Naturalmente, caro Parenzo, il solito scontro, li brandi contro la folla di dalla vostra parte. Ecco. Senti, li brandi e la folla di dalla vostra parte. Abbiamo già da pagare le tasse, poi ci sono tutti sti furti e noi non riusciamo più a lavorare. Ma portano via, sì, di tutto. Certo. Ma certo, Maurizio, volevo, ma poverino, tutti rubano a te. I poveri rom rubano tutti a te. Io dico che un popolo fiero come gli italiani deve aiutare i rom a integrarsi. Poi contro Poletti, ormai diventato praticamente il portavoce degli anti-immigrati e degli anti-rom italiani. E sono rimasti solo in 50.000. Librandi, e se voi invece di protestare parlate Librandi, con i rom, di, sono Librandi, delle persone, di, anche loro. Allora, Librandi, e che ogni imprenditore, prego, dia lavoro a una famiglia di rom. Lei se ha centinaia di dipendenti, lavoro, quanti rom ha in azienda? Immediatamente, quanti rom, caro Poletti, in azienda? Se no lei andrà, quanti rom lei ha andrà in azienda, Poletti, a bruciare per l'eternità. Librandi contro un altro, vai. C'è un bel clima là. Lei dice nessuno dice niente, cosa dovremmo fare? Demolirgli le case? Ma anche i collegamenti con l'energia elettrica forse non è proprio regolare. Certo, ci sono dei non bambini, forse delle condizioni igieniche non vanno rispettate, non lo so. Ci dovremmo chiedere perché noi che abbiamo una società e magari abbiamo anche troppo, non riusciamo a dare lo 0,2%. Ma Librandi, ospitali fare nelle tue ville, ospitali a casa tua. Ascolta, apri le tue aziende, assumili, portati nella camera da letto, ma lasciaci in pace, politico, sono amici tuoi, portateli, come risolvere, dai, questi su problemi. Quello era un deputato, non so chi, di Forza Italia, un tale Bestetti, ospitali tu a casa tua, è quello che si dice spesso a Parenzo, sì, in questa trasmissione. Sì, ma è una cosa nuova anche questa, certo. Ospitali a casa tua! Allora, a proposito della vicenda di Cattaneo, no, di Lodi, ieri è intervenuto il fratello Anemo, c'è la traduzione in italiano. Ovviamente il fratello è romeno, abita in Svizzera, non so dove abita. D'accordo. Che dice: mio fratello non era un ladro, era un lavoratore onesto. Adesso, amico mio, d'accordo che tu devi dipingere tuo fratello non come un ladro, ma che cosa stava facendo dentro il ristorante di Lodi? Cosa faceva? Scambiava le figurine? Era andato a fare una partita a 3-7 insieme agli amici? Dubito. Dai, questo. Su, lavoratore onesto? No, era un ladro. Uno dovrebbe essere anche fiero. Che cosa fai nella vita? Fiero, faccio il ladro. Sono un ladro e mi prendo il rischio, essendo ladro, che se entro dentro casa di qualcun altro, questi qua si spaventano e scappano, oppure se c'è qualcuno armato, lo devi mettere nel conto. La possibilità è che ci sia qualcuno armato, oppure qualcuno senza nulla. Questo armato può sparare. Dunque, non rompere i coglioni, fratello del morto, dicendo voglio avere giustizia. Perché la giustizia in questo caso non ti può dare ragione, perché tuo fratello era un ladro. Ma non è un ladro, dovresti essere orgoglioso del mestiere di tuo fratello. Che cosa faceva? Il ladro. Mio fratello faceva il ladro. Sì, ma ci sono dei ladri orgogliosi, come no? Dei ladri orgogliosi che semplicemente dicono: beh, mio fratello faceva il ladro perché finite volte si è specializzato in una specializzazione, essere ladri. Una, assolutamente una specializzazione. Perché? Non è facile. Io non riuscirei a fare il ladro. Sei il deputato polacco, ma certamente. Sentiamo Victor. Io non credo che lui sia andato via da casa per fare i soldi in maniera disonesta e non mi spiego come sia potuto arrivare fino a questo punto. Lui era un lavoratore onesto, timido, rispettava chiunque, dal grande al piccolo. Mio fratello non era un ladro. Onde che chiudete, cornuti! Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta La Zanzara. Vorrei vivere in un condominio dove abitano Donato da Varese, Mauro da Mantova, Karma, Riccardo da Roma, Richard Benson, Adinolf, Valentina Nappi, Susanna la puttana, Lore e sua sorella, amministratori di condominio David Parenzo. Saremmo allo strato. Naturalmente. Allora, un ritorno rapido. Ma naturalmente. Allora, torniamo sulla vicenda Minzolini per un secondo, no? Sì. Ti voglio dire una cosa, è veramente una vergogna. Lo sai che cosa è una vergogna? No, non fare anche no, tu. No, la vergogna è solo una. Allora, no, me l'ha suggerita questa mattina. Non è nemmeno farina del mio sacco. Non lisciare il pelo ai gatti. Stai attento. Liscia il pelo in modo una contrario persona, al gatto. Una persona in sosta. Esci dal tuo mainstream. Esci dal tuo sentir comune. È arrivato l'intellettuale dei miei coglioni. Ma allora, aspetta un attimo. Ti dico una cosa molto semplice. Me l'ha suggerita un mio amico che non è assolutamente accusabile di essere, non posso dire nome perché non mi ha autorizzato, naturalmente, di essere un grillino, tutt'altro. Dice: Di Maio alla fine ha ragione. Perché metti accanto due fotografie. Quella del Senato della Repubblica, stracolmo con tutte le tribune piene per salvare il signor Minzolini, e qualche giorno prima, credo la Camera o il Senato stesso, non lo so, deserto per la discussione che invece interessa la carne viva degli italiani, i problemi seri degli italiani, come il fine vita, come la morte, come il testamento biologico, dopo la vicenda, vuoto, non c'era nessuno. Quando si tratta di problemi importanti come il testamento biologico, come il fine vita, eccetera, tribune deserte, certo. Mentre gli stessi politici hanno blaterato su questa cosa qua del DJ Fabo. Vero, quando invece si è trattato di salvare la cadrega, il posto a Minzolini per scopi politici vari, anche legittimi, eccetera, tutte le tribune piene, i gradoni pieni in ogni ordine di posti. Vabbè, è una cosa normale questa, secondo te? Questa è una vergogna, punto e basta. Questa è una osservazione anche giusta. Basta, solo questo. Ma tu lisci il pelo, devi cominciare a lisciare il pelo al gatto in senso contrario, capito? Comincia a andare un po' contro il sentir comune, allora, capito? Travaglio dice che il voto su Minzolini è un colpo di Stato, senti. Il voto che ha salvato Minzolini dalla decadenza è un atto eversivo, è un colpo di Stato. Naturalmente. Vabbè ragazzi, andiamo a Victor da Perugia. Victor, vai Victor. Pronto? Dimmi Victor. Pronto? Che sei, romeno tu che sei? Victor Orban. Sì, Croce, sono romeno. Sono romeno. Sono romeno, sono camionista, lavoro da 15 anni in Italia. Bene. E sono dalla parte del signore che ha ammazzato quel romeno. Sì. Mi dispiace tanto che sono scappati quegli altri due. Dal punto mio di vista, questa è la morte troppo facile, hai capito? Cioè, devono essere chiappati, sì, e strappati le unghie, cruciani, rotti i ginocchi. Amico romeno, vede. Strappate le unghie e rotti i ginocchi, sì, e buttate sul marciapiedi. Ecco, signor Romeno, fallo parlare. Dico perché, Crucia, sì, perché io fa il lavoro di camionista. Sì, quando sì, salgo sopra al camion, a fa camionista è un lavoro un po' particolare, diciamo. Sì, certo. Così lo considero io. Quindi mi assumo un rischio, giusto o mi sbaglio? Beh, sì, certo. Quindi, certamente. Mi assumo un rischio. Ogni seconda, ogni momento mi può capitare qualcosa. Quindi il rischio è mio quando sono salito. Che dici, signor Parenzo, se io adesso ricevo una telefonata da casa mia, dalla figlia, dalla moglie, e mi dà la notizia che sono venuti i ladri a casa mia. Io sto sopra il camion da domenica sera, Crociani, dalle 10 sono salito, alle 10 sono partito da casa, e come mi sta? Se trovo i ladri a casa mia. Che fai? No, io li strappo le unghie, li rompo i ginocchi e la morte è troppo facile. La però morte veda, è troppo facile, caro amico, e li torturi romeno, anche dopo, magari dopo li torturi o no? Crociani, c'ho sangue freddo per questi signori, per questi bastardi, sangue freddo ci vuole. Cioè? Freddo, ammazzati non fa niente, la legge li difende, dopo tutto. Manca un mese, non sta dentro, dopo sta. E allora che va fatto? Vanno torturati? Che va fatto? Torturati! Signor dentro camionista romeno, mi scusi. Qui siamo in Italia, la Romania fa parte dell'Unione Europea. Però vorrei, scusi amico caro, volevo dirle che nella patria della nella culla del diritto, diciamo, strappare le unghie, virgola, spezzare le ginocchia e farlo rotolare giù dal camion in corsa è una pratica che forse appartiene alla Romania degli anni 50. Ecco, siccome siamo in Italia e la Romania fa parte, è uno stato membro dell'Unione Europea, io la inviterei come dire ad adeguarsi a degli standard più civili che non quello di Quindi, tu sei venuto dentro un paese civilizzato, quindi tu devi rispettare questo paese, ma va bene, lasciamo perdere questa cosa, lo fai anche in Romania, qui devi rispettare tutto. Rom, rumeno, quello che è nazionale. Vabbè, ho capito, tu stai dicendo che Non condivido le tue idee, Parenzo, per quello che riguarda il Rom, i Rom non sono rumeni, sono un popolo a parte. No, ma chi sono parla di Rom? Come li consideri i Rom tu, i Rom, signori Rom? Bastardi, questi devono morire. Cresciuto alla scuola di Einaudi, questo signore. Un popolo che non fa niente, respira ossigeno del mondo, lo respira, lo consuma. È un democratico, sincero, questo rumeno. Lo consuma ossigeno, sono inutili. Mangiano le semi, putano per strada, sputa tutto quello che si può fare male, hai capito? Io non ho visto un rom. Se Parenzo conosce un rom che lavora, onestamente, sì, conosco più di qualcuno, certo. Parenzo, lascia perdere, dai, che io sono nato tra di loro, io ho cresciuto tra di loro. Sono bastardi, sono solo per rubare. A rubare, tu non hai visto che casi ce l'hanno dentro la Romania? Tu hai visto che macchine portano i rom? Io sono molto grande, molto grande. Il rumeno pronto a candidarsi noi con Salvini. Io sono partito dal paese mio 40 anni fa, Parenzo, ho lavorato in tutto il mondo. Bene, adesso bene, mi trovo ci Victor, come stanno? Dopo mi spieghi come sono le piazzole gay. Dopo Victor le piazzole Orban, gay, questo. Victor, ci sentiamo alle 19:15. Victor Orban è il top assoluto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Sono un puttaniere e me ne vanto. Ciao amico mio, ti amo, ciao, ciao. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. La Zanzara. Oh, porco maiale, ce l'ho con te oggi, ce l'ho con te proprio, Diego. Disgraziato, Diego. Tanto ciao. Cruciani, vai a fanculo, vara. Sei un gran testa di cazzo, vara. Sei una razzista di merda, vara. Sei una razzista, vara. Sei una razzista di merda, sei. Bastardo che sei, Cruciani. Ma vado a far futuro, va. Parenzo di merda, sono un camionista bresciano. Se i camionisti rumeni fossero tutti come quello, non avremmo il problema dei rumeni in Italia. Lo invito volentieri a casa mia quando vuole. Grande rumeno quello. Comunque ragazzi, io ho una proposta, Io ho una proposta per tutti quelli che sono... Una proposta dei Cruciani. Sì, una proposta per tutti quelli che dicono no, le armi non vanno usate, i cecchi paone di ieri. C'è anche signor Caprarica, sentiamo signor Caprarica pure, che dice comunque un errore usare le armi. Il signor Caprarica, Caprarica, ex corrispondente della RAI a Londra, ve lo ricordate? Quello col papione, famosissimo, bravissimo, no? Bravissimo. Un grande inviato. Signor Caprarica, sentiamo. Io penso che quei signori lì si dovrebbero vergognare, perché una vita umana è sempre qualcosa che vale di più di una stecca di sigarette. Fermi, fermi, fermi, fermi, fermi, fermi. Poi direte la vostra quando andrete a votare. Respinge la folla, signor Caprarica, no? Bravissimo, fermi, bravissimo. Fermi, fermi, fermi. Voleva dire fermi, idioti. Fermi, Belluini, no, fermi, sì, merda. No, sì, no, sì, lo pensa dentro. No, lo pensa dentro, no, Belluini, no, schifosi, no, merda. No, ma chi schifosi? Come no, come ma no. Assolutamente. Poi a proposito della vicenda, sempre Caprarica, a proposito della vicenda sempre di Lodi, dice: sono colpito dalla quantità di gente che... Senti questa cosa qua, perché indirettamente critica il ristoratore di Lodi, che sostiene attraverso il suo avvocato eccetera che è inciampato e gli è partito il colpo. Ecco, sì, appunto. Sinceramente anch'io non credo a questa versione. Esatto, ve lo dico, esatto, ve lo dico, non credo a questa versione, però ha tutto il diritto di difendersi come vuole il signor ristoratore di Lodi. Ma naturalmente, naturalmente. Sono molto colpito da una circostanza, la quantità di gente che inciampa e parte un colpo per caso. E guarda caso, inciampa, parte un colpo per caso, va sempre in pieno, colpisce pienamente nella schiena. Naturalmente. Voci da Ferrara, ecco, sentiamo, voci da certo. Ferrara durante Piazza Pulita, e Formigli si sorprende che la gente parla, che ne so, di mettere i rom non so dove, i dati, però credo. Lo dice davanti alle telecamere, amico mio, è una vita che qui si parla di queste cose qua, amico mio Formigli, però, non c'è anch'io nessuna... mi stupisco sempre, ma non ogni c'è da giorno. Stupirsi di nulla, c'è dai. Da stupirsi invece, no. C'è da indignarsi, sì, però le mani in onda, da nulla che uno tutto. Si indigna, vabbè, che deve fare, era lì in diretta, che deve fare? In diretta, servizi registrati. Che stai lì? Anche nel pezzo. Senti, senti. Adesso che abbiamo dei problemi con le fornaci. Sì. Con le? Con le fornaci che sono più di smettere. Se noi le accendiamo. I forni? Eh sì. I delinquenti spariscono. Cioè le dice di mettere le persone nei forni? Lì che fai il sapone, fai qualcosa. Però un delinquente va trattato così. Fare i saponi, mettere dentro mamma le fornaci mia. Delinquenti. Ma vedi, credi, ora questa roba qua che si diceva e si faceva durante il nazismo, per anni erano espressioni che erano state bandite dal lessico politico. Uno si vergognava fino a poco tempo fa a dire delle porcherie simili. Ora addirittura del coraggio di dirlo davanti a una telecamera con un microfono in mano. Cioè, bisogna questo vedere, è se una telecamera il nascosta, salto ma di non qualità. Credo. Ma no, ma il salto di qualità agghiacciante è questo qui, capito? È un salto di qualità proprio, di qualità. No, un salto nel basso, nel vuoto, nel baratro. Ma se ti strappa via il fucile, questi qua cosa ti fanno? Cos'è che ti fanno? Ti legano lì a lì e magari ti portano giù le mogli e te le violentano. Nel cervello sparano. Se il ladro entra a casa sua, lei spara o no? Prima in aria e la seconda addosso. 9 fucili ce l'ho e 4.000 cartucce. Prima che mi prendano ne faccio secchi così tanto. lei Salvini lo voterebbe? Su certe cose sono d'accordo. Quale? Votare tutti gli immigrati, lo dico io. Lo scavatore subito, fare un buco, lo metti lì. Chi? Al rumeno, guarda, rumeno. Cioè lo seppellisci? Sì, vai giù un bel po'. Comunque c'è un elemento fondamentale, la gente è incazzata, la gente è incazzata. Eccolo qua, è il sociologo. No, la gente è incazzata e non vuole occuparsi in prima persona della propria sicurezza. Io credo che questa, al di là ovviamente delle frasi che si dicono ma non vengono mai, poi non si seguono mai. Ti credo, ma cioè, non è che la gente piglia e scava c'entra? La fossa e mette dentro i momenti. Ma questo contribuisce al fatto che il matto si sente autorizzato. Si sente autorizzato a essere razzista. Le persone sono esasperate, vogliono provvedere da sole alla propria sicurezza. Ma e questo è condivisibile, dire? È sempre condivisibile. Ma reati, ci sono i reati in calo, mica ci sono le città messe a ferro e fuoco. Su, dai, allora, diciamo sì, ma le città no, in campagna, sì. Le ville isolate, eccetera. Tu perché vivi a Prati, al quartiere Prati a Roma. Storia, e allora certo storia. Che non subisci l'assalto. Ma non è vero, guarda dai. Che anche lì. Lì c'è i parioli, a Prati, c'è, dove nulla, vuoi, c'è non gente dire cazzate, ma dai, mica su. C'è i tappeti rossi per strada. Allora, Victor da Perugia, hai sentito il tuo collega camionista che ti ha chiamato prima, ti ha chiamato in causa, dice che puoi andare a casa sua, ti invita a casa sua, l'amico camionista, Victor, eh? Sì, l'ho sentito, grazie. L'ho bene, sentito. Hai ricevuto. Fate un bel convegno di razzisti lì insieme, di torturatori, vi trovate lì. Prego, grazie un cazzo. Prego, fate un convegno. Victor, allora, ricapitoliamo perché si fosse messo in collegamento. Victor ha detto che a un ladro che entra dentro casa tua non basta, diciamo, morire è troppo facile, sparargli è troppo semplice, tirerebbe via le unghie e gli spezzerebbe le gambe, in sostanza, signor Victor. Perché tu quando hai visto la porta chiusa vuol dire che di là è chiusa per un motivo, è la proprietà di qualcuno, e per quella proprietà una persona ha faticato, ha lasciato il sudore, forse anche il sangue è uscito sul naso. Sì. Però deve rispettare mi sembra un discorso di una lucidità, no, signor lucidità? Victor. Ma di una cosa dici? Ovviamente. Ma questo qua ha detto che bisogna spezzargli le gambe, strappargli le unghie. Ma i dettagli sono importanti. Cosa vuol dire al di là dei dettagli? Victor dice: quando uno trova la porta chiusa, questa porta chiusa deve essere rispettata. Altro che Caprarica, altro che Cecchi Paone, eccetera. Bisogna rispettare questa proprietà. Non entri, se entri, sono cazzi tuoi. Questo è il principio da affermare, fondamentale. Ma quale principio? Tu ti devi assumere la responsabilità quando hai aperto quella porta che non ti appartiene, quindi tu ti assumi la responsabilità. Dietro alla porta può essere un matto, può essere una persona armata, perché la casa sua è la sua, è sua ed è nessuno. Ma ragazzi, ma questo è il numero uno. Questo, Victor, è il numero uno. Ha fatto i sacrifici per quella casa. Tu non puoi venire a casa mia e tirare fuori un succhi denti, porco diavolo. Un succhi denti è mio quello. Stuzzica quando dente. È mio, è il mio, solo mio. Parenzo, hai capito o non hai capito? Hai fatto un altro tipo di vita, Parenzo. Hai fatto, io ti rispetto. Ma quale altro? Meno male, altrimenti mi strappa le unghie pure a me, per carità. Perché facciamo una grande polemica, tutti e due, che non condivido come lo pensi tu. E questo è un altro... In quello che riguarda gli africani, in quello che riguarda, facciamo un discorso troppo lungo. Victor, non posso essere d'accordo con te. A casa mia vuol dire che è mia, è solo mia. Hai capito? Victor, mia, della mia famiglia, io mi devo difendere la figlia, mi devo difendere la moglie e mi lo stesso. E nessuno glielo impedisce. Infatti, prendi lezione da Romeno. Prendi lezione da Romeno. Un attimo. Ti racconto una cosa che mi è successo altro ieri. Che ti è successo? Una via di servizio. Abbiamo un caffè da portare via, perché noi camionisti ogni tanto li fermavamo in posti dove quando ti svegli non trovi un bar, va bene, dai. Ho preso un caffè da portare via. La ragazza, una ragazza da 22-23 anni circa, così diciamo, ha detto che non ce l'ha il coperchio per quel caffè. Va bene, dico, non c'hai un coperchio, dai un pezzettino di argento, dai qualcosa, perché va via tutta capina, mi fa solo un caffè. Vabbè, allora ha detto Parenzo, va via fuori, pezzo di merda, rumeno di merda chi sei. Parenzo, ti giuro, guarda, sto a guidare adesso sto guidando, quindi io non mi giuro così come un matto. vai fuori pezzo di merda rumeno che sei. Io ho 70 anni, lei che aveva circa 23-24 anni. Allora? Va bene, io non ho detto niente, sono uscito fuori. Vede, mi sono fermato di nuovo, mi dispiace che l'ho trovato il proprietario, era un barista, ma io ripasso, voglio vedere quel proprietario e la sua parere. Ma sono uscito fuori rispettoso, perché quel bar è di qualcuna di una persona. Perché io se ero un matto, piavo una tazza di caffè e la mattina la signorina cercava un studio dentistico. Scusami, no, ma certo, ma aree di servizio, spiazzole dove ci sono gay, novità, notizie nuove? Ma Parenzo, non è il mio... No, Cruciani, no, questo è Cruciani che da chiede. Me sempre mi è piaciuta la parte femminile, ci sono dappertutto, dappertutto ci sono anche questi signori gay come si chiamano. Ma bussano la notte, non nelle piazzole, bussano o no? A me non mi è successo, sono le persone, il rispetto, sono gli educati. Poi qua un discorso civilizzato, da me in cabina non ha bussato nessuno. Vabbè. Sono le persone ciao educati. Victor, ciao, sì. ciao, fermi ti tutti. Saluto, un attimo. Crucia. Dimmi che c'è, amico mio, che te sei casato. Dimmi. Ma tu mi fai incazzare qualche volta come da morire. Si perde il segnale sempre, non si sente sperare. Amico mio. Lo so. Hai ragione. Alex da Prato, vai Alex, veloce, rapido, poi andiamo con la pubblicità. Vai Alex. Sì, buonasera. Avete capito? Servizio tecnico! Avete capito, Victor? Avete capito o no? Buonasera. Fermo, Alex, dobbiamo mandare la pubblicità, fermo. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo! Siamo il top! Ciao, Ricchione. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. A Parenzo, ci sei rimasto solo te e la Boldrini a difendere zingari, ladri, spacciatori. Difendi la feccia del mondo, tu e la Boldrini. Vergognati. Ciao, sono un esponente della maggioranza silenziosa. Non piscio nel lavandino, non mi faccio i selfie con chi ammazza i ladri rom, non odio i migranti. Ma allora che vi ascolto a fare? Allora ragazzi, tutto molto semplice. Se volete Parenzo sindaco di Padova, spedire le multe a casa ai mariti miserabili o mandare a cacare Cruciani in diretta, 800240024. Se invece volete aprire un campo rom, dare del fascista a Salvini oppure mandare a cacare Cruciani in differita, 393-71-71701. Parenzo, la maggioranza silenziosa è sempre con te. Bah. Avanti tutto, fatevi sentire, siamo in tanti, tirate fuori il coraggio, inondate questo cazzo di centralino di telefonate, siete di più voi, la parte civile, sana, non dico colta, ma che sicuramente legge almeno un giornale al giorno, che si informa, che ha sensibilità, che quando fa l'amore ha le farfalle nello stomaco, che detesta la gente che fa le gang bang, che chiama trans, che quando torna a casa gli fa piacere vedere la fidanzata che fa l'amore con un altro. Siete tanti, siete la maggioranza, chiamate, inondate il centralino 800 24 00 24. Naturalmente ragazzi, il Papa ha parlato oggi a Piazza San Pietro. Basta col Papa, ha parlato però. A Piazza San Pietro oggi. Vabbè, è mica notizia. Vediamo. Fratelli e sorelle, buonasera. Vai. Fin qua. Fin qui, è tutto a posto. Che succede? Avanti. Dopo Ski Italia, altra volta, voglio rivolgere un pensiero speciale ai lavoratori del Sole 24 Ore. Come Sole 24 Ore? E del Radio 24. Ma no, non è possibile. Come vorrei una radio povera, no, per povera. I poveri. Bravo, bravissimo questo. Ma radio povera, mi dicono che è già povera, no, pure per i poveri. Auspico che la loro situazione lavorativa trovi una rapida soluzione. Bene, questo è importante, sì. Ma sì, fate presto. No, come fate presto? Fate presto, mi raccomando. No, come fate presto? Questo ha portato sfiga, fate presto, scusa. Slogan che tanta fortuna ha portato alla azienda. Ma no, ma ha portato una sfiga terribile. Ma cosa Presidente dice? Boccia, vice direttore Barisoni, con la sua trasmissione Focus e via. Ma, no, Focus bisogna economia. Salvare quei poveracci De Cruciani e soprattutto De Parenzo. Ah, caspita, che onore. Questo è importante. Caspita. Poi? I responsabili dei popoli, sì, e i dirigenti hanno l'obbligo di fare di tutto, sì, che ogni persona, sì, possa lavorare e così avere la fronte alta. Vabbè, per questo, guardare in faccia agli altri con dignità. Vabbè, questo e è importante. Non far perdere il lavoro per colpa dei negoziati non del tutto chiari. Beh, chiudendo fabbriche. Bravo. E imprendimenti lavorativi. Ma imprendimenti, chi fa questo fa peccato gravissimo. Vabbè. E che cazzo. Ma che cazzo si può aprire così, che cosa cazzo ha detto? Comunque ragazzi, finalmente dopo Ski Italia c'è stato un riferimento diretto in questo solito messaggio dal balcone di Piazza San Pietro, un riferimento diretto anche ai lavoratori del Sole 24 Ore, si è rivolto anche al dottor Boccia perché tutto si risolve nel migliore dei modi, vedremo insomma che cosa si può fare. Sì, però quella trasmissione là non è Focus vai via, sì effettivamente Focus vai via, focus, cioè perché scaccia economia. Un po' di scherzo, Focus no, economia, non Focus vai ma via, dai. Allora, Alex da Prato, vai Alex, che volevi dire prima? Signor Alex, sì, buonasera. Sì, dimmi, dimmi. Volevo dire innanzitutto che a chi entra in casa mia gli posso sparare i coglioni e poi fa come la Bobbit e lo butto in mezzo alla strada. Questo è molto buono, questo è molto almeno buono. Almeno evito che inquinino il resto del mondo. Sì, seconda questo cosa, adesso. Il Papa deve fare sti cazzacci sua. Sì, sì, anche questo da, giustamente e da, terzo, c'è una, c'è una, aspetta un attimo, c'è una, un profondo anticlericalismo toscano che esce fuori da questo certo. Alex da Prato, no? Sì. E c'è in Toscana questa avversione nei confronti del papato. Dunque, ha tradotto Alex, ha tradotto sì. Il Papa si deve fare Alex i cazzacci è suoi. Una persona molto maleducata. Ma perché Alex? Maleducato? Grazie, mi permetto grazie, di... Lorenzo, grazie. Ma lui prego, si picca prego. Di essere maleducato. È un si grande di... maleducato, anzi, offende milioni e milioni di fedeli. Comunque, pazienza. Vabbè, sì, allora infatti lui dice pazienza. È la terza cosa, viva sì. Le prostitute, perché sono d'accordo con Cruciani, perché sì, l'ottimismo è il profumo della topa. Sì, vabbè, com'è l'ottimismo? L'ottimismo? È il profumo della topa. Ah, è il profumo della topa anche. Guardi, se vuoi. Se lei ha bisogno di pagare per sì. Comprarsi l'amore, vuol dire che veramente è uno sfigato. Quindi se lo no, lasci io dire. Pago e sono contentissimo. Cioè, meglio pagare che ne so, che avere un amore, che avere le farfalle. Porca miseria, certo. Cioè, paghi e non hai problemi, questa è la realtà. Assolutamente sì. Beh, non è una filosofia del tutto sbagliata, caro Parenzo. Lo so che no, voi... non è del tutto sbagliata. Pagare cioè, in tutto. Pagare in tutto. Scusami, Alex, lì come avviene con le cinesi lì? Tu hai frequenti anche le cinesi lì a Prato? Le cinesi ce ne quante vuoi volere a Prato. Sì, ma ok, ho capito, ma anche prostitute? Sì. Sì, tu frequenti? Abbastanza. Frequenti anche quell'ambiente o no? Poco. Ni. Vabbè, oh, una domanda, Non no, è un problema. Non sì, è interrogatorio della questura. Cioè. Va bene, Salvatore Modena, vai. Oh, intanto complimenti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Nessun sentiamo, complimento, sentiamo. Non ce ne frega un cazzo. No, vai, complimenti no per la trasmissione, perché mi avete richiamato, avete avuto del coraggio. Ma noi richiamiamo tutti, noi richiamiamo tu, perché? Qual è il coraggio? Chi sei? Mandrake? Chi sei? Chi sei? Un bombarolo? Chi una sei? Persona, no, sono una persona comune che stasera ascoltava la vostra trasmissione. Sì, ho sì. Sentito attaccare una donna sì. Che alla moglie, che al marito, non so, non ho capito bene se è in galera, se è indagato. Stiamo scarcerando. Sì. Ragazzi, ah, sì, no, capite? La moglie, la signora Cannizzaro, la signora bravo, Cannizzaro. Bravo, certamente, bravo, sì, bravo. Non è una signora qualunque quella lì. Luce, com'era, non mi ricordo bene. Vabbè, ma qual è il problema? Non ho capito, qual è il problema? Quella signora lì era mia moglie, o io ero l'avvocato di quella signora. Tu sei l'avvocato? Ah, se fossi stato, sì. Non so, sarei stato. No, per carità, ma qui si può usare anche un italiano. Chi è questo qua? Chi è questo Salvatore da Modena. Se tu fossi stato il marito, l'avvocato di questa signora, cosa avresti fatto? Moralmente. Io spero solo che la, mia, che quella signora stia bene mentalmente, perché l'avete portata quasi al suicidio. Ma che suicidio? Io ho mio marito in galera, tu mi fai le battutine duce, non capivo bene. Se io ho problemi che non so dove, magari se c'è soldi per pagare l'avvocato e tu fai le risate, no, non andare in questura, perché l'arrestano, la tengono là. A me che c'ho un marito in galera, che sono esaurita, che avrei bisogno di psicologo, di un aiuto, anche se mio marito è un assassino, che quello che sia, io non so cosa è successo, sono una fase in cui tu mi stai distruggendo moralmente. Sì. Non solo mio, capisci, ma capite quello che fate? Sì, ma allora... siete umani. Siamo umani, no, francamente no, no. Non mi sono mai, non Comba, mi sono mai... Vuoi parlare seriamente di cose serie? Parliamo. No, ma sì, certamente di cose serie. Non c'è dubbio, Salvatore. Buonasera. Buonasera. Non intervengo per rompere le scatole, però guarda bene che quell'avvocato, non so se avevate gli avvocati, telefona tutto che parla con il suo avvocato, lui col suo avvocato. Cioè, che pagliacciate erano, non capivo. Non l'ho capito. Però c'era mia moglie, stai attento, io non è che andavo dall'avvocato, venivo io. Con le forze dell'ordine, così che a che fare con le forze dell'ordine, chi? Ma se tu vai dalle forze dell'ordine, cosa? Le forze dell'ordine a tutelarmi davanti di te, mia, no, ma Salva... che significa quella donna lì che è stato e adesso? Ma non me ne frega, ma non me ne frega nulla, Salvatore. Ma se tu parlando, ti non se... mi faccio parlare, se tu, non ti... mi faccio parlare. Se tu ti rivolgi alle forze dell'ordine, le forze dell'ordine chiamano, ma no, chiamano l'ambulanza, chiamano gli infermieri. Ma se questa l'altra sera si chiamano gli infermieri, ma quale balcone? Ma mi tira il telefono con te, si buttava dal balcone. Ma non lo so, ma ognuno fa quello che vuole. Se ci vuole buttare dal balcone, si buttasse. Bruciava mica il culo a te, giusto? Normale, Salvatore, ragazza. Chiamano, non è tua moglie, chiamano gli infermieri. Non è tua amica, non è tua sorella, non è una autoconoscente. Che te ne fotte? Mentre è ladro a casa, che fai mentre è ladro a casa? Boh. Ma io solo pazzo. So cosa potrei fare se mentre è ladro a casa. Io non ho capito, io non ho capito una parola, guarda. Vabbè, ma questo qua è disturbato, un disturbato, va bene. Ah, grazie, sono disturbato. Ciao, Salvatore, ciao, ragazzi. Ciao. Beh, ciao. Un po' sì. Ciao, ciao. Oh, Giuseppe della provincia di Chieti, andiamo con Giuseppe della provincia di Chieti, vai, vai Giuseppe. Grande Cruciani. Oddio, il solito, mamma mia. È ritornato mamma il cretino, mia. Dai. È ritornato, allora. Se ne fa. La televisione con mia moglie, no? Con mia moglie. Ah, perché hai pure una moglie tu, Hai anche una moglie. Esattamente. Ha una moglie questo qua, una moglie. Questo certamente fa il palio con l'altro certamente. Lei stava in una trasmissione, lei, le do del lei, no? Sì, lei che io ero in una trasmissione, io Cruciani. Allora, sì. Mia moglie ha detto, eccolo qua, ho detto, questo è Cruciani. Sì. Ha detto, che sgorbio, ha cambiato subito trasmissione. Ha parlato, io non ti ho mai visto, Giuseppe, ma sicuramente non sei Brad Pitt, guarda. No, ci sicuro. Scommetterei che non sei sicuro, Brad sicuro, Pitt. Sicuro, proprio. Dunque, no, tua moglie sicuramente ha sposato uno più brutto di me, su questo non c'è dubbio alcuno, ma Giuseppe, dai, allora Cruciani, io l'ho difeso, io ho detto no, ma quello quello stavo per dire è un divulgatorio, cioè invece di divulgatorio. Dire divulgatore scientifico laureato al CEPO, ho detto divulgatore scientifico, certo. Sì, l'hai difeso. Allora il pappagallo lo faccia stare zitto, sarei io il pappagallo. No, il pappagallo cocainomane, comunista di merda, ma non è cocainomane, al limite è stato comunista, ma Dottore è andato al cinema, non può parlare con demente totale, Dottore è uscito. Cocainomane. Ma perché cocainomane? Dottore, no, perché? Usa cocaina dalla faccia, no? Ma dalla quale faccia? Dai, su, cocainomane. Ma che dici? Ma tu non sai nemmeno che cos'è la cocaina. Cioè, non l'hai mai vista nemmeno. Non conosci nemmeno la sostanza. No, io certamente non lo conosco. Ma non sai che cos'è? Preso, dunque, come fai a dire cocaina? Conosco i tipi che lo prendono. Sì, Parenzo sembra cocainomane. No, che lo prenda, no? Tipo, cocainomane con gli occhi. Basta, con gli occhi. Basta, trucco. Basta, questo si deve chiamare. La seconda cosa che volevo dire. Avvocato Trucco. Sì, chiama l'avvocato. Mi ha dato del cocainomane, quindi devo metterlo in diretta. Chiama subito. L'avvocato. Sì, sì, no, lo chiamo subito, questo stufato adesso. Cocainomane 19:44. Stai zitto che finisci in gattabuia finalmente. Risolviamo aspetta, il problema. Cretino, aspetta. 19:44. Aspetta, questo è un piccolo imprenditore. Avvocato, scusi, ci ha chiamato uno dei soliti, quella radio, e mi ha dato del cocainomane 19:44. Possiamo procedere? Ti ha dato anche del comunista di merda, ho sentito. Esatto, avvocato, possiamo procedere? La cosa è gravissima, sarà una grande battaglia giudiziaria. Quanto può rischiare questo qui, questo miserabile? Molti soldi. D'accordo, possiamo procedere direttamente, fai tu? Procediamo già stasera, guarda subito, adesso mi porto al primo ufficio del... sì. Vado a depositare la querela. Adesso... La ringrazio, avvocato. Esatto. Grazie, ciao, grazie, ciao, avvocato. Arrivederci, buon lavoro. Ottimo, finito, Giuliani, chiuso il problema. Dimmi, Giuseppe, dimmi. Sapeva già tutto. Dalla paura. Ma gli uffici legali, l'ufficio legale lavora 24 hours. Ciao, cretino, ciao, cretino, ciao. No, la seconda cosa. Ciao, cretino, dopo, casomai, dopo. No, fagli commettere un altro reato. Dai, fagli commettere un altro reato. Via allora. quel pallone gonfiato che aveva scritto fate presto, no? Che no. Imbossava le copie, no? Ma che c'è? Ma c'è, ma cosa non dire? Bisogna infierire su queste cose, ormai non si può infierire su quello. Ma no, deve essere tutto dimostrato. Ma di che cosa state parlando? Dire che è un pallone gonfiato. Vabbè, ma... diglielo direttamente. Grazie. Tu, ma napoletano, portagli via tutto, esatto. Anche tu, ti prego. Napoletano, ti prego, ti portagli via tutto pure tu. Ti prego, direttore. Sì, portagli via tutto. Ciao, ciao. Fagli fare un bel viaggio in Italia, nei migliori carceri italiani, a questo qui. Faglieli fare. Chiamiamo Polegato, vai, il matto fascista, il ristoratore, vai, vai col telefono, vai. Naturalmente. Pronto? Ferdinando? Sono io! Eccoci qui la radio, come stai? Radio chi? Zanzara! Amico c'era, mio, c'era. Come stai? Certo. È un altro, quando si rompono i coglioni siete sempre pronti, eh? Siamo sempre sul pezzo, amico mio! Ma ho saputo che devi fare una nuova lista, la lista Rebalton! Sì, certo! Ma dove la fai? A Maniago. Dov'è Maniago? Maniago è la città del coltello. La città del coltello? Sì, tra Spinbergo e Sequoias, è a 8 km da Sequoias, è la città dove fanno i coltelli, dove è nato il coltello, le forbici. Non c'è città più appropriata per la lista Rebalton, coltelli in mano, sì. No? Coltelli in mano, no, non siamo violenti noi, abbiamo solamente dei pezzi di merda che ci governano. Ha detto che ci sono dei pezzi di merda che ci governano. Abbiamo dei pezzi di merda che ci governano. Sì. Come, purtroppo noi riusciamo a mandarli via perché ormai sono rimasti incollati tra di loro, sono tutti massoni, marionette che saltano. Senta, una parte della... Aspetta, voglio chiedere a Polegato una cosa, però interessante, poi chiedi quello che vuoi. Questa è quella. Facciamo la classifica di quelli che lei chiama pezzi di merda, cioè il primo in assoluto di pezzo di merda chi sarebbe? Guarda, il presidente della Repubblica, il capo dello Stato, il signor Mattarella, dello Stato Mattarella, che ha un sistema mafioso, cioè lui è un mafioso, no, ti spiego perché io penso questo, certo. Perché lui che era della Consulta, cosa ha fatto? Ha dichiarato che il governo è illegittimo, pertanto non doveva neanche esistere. Ma cosa è successo? Che lui si è fatto eleggere da persone che ha dichiarato illegittime. Secondo te cos'è questo? Il sistema è mafioso. Poi Napolitano, che ne so, parliamo di Napolitano. Napolitano, comunista, tu lo sai, io sono fascista, no? Sì, certo, Napolitano, è normale, tutto normale ormai. Cosa posso dirgli io di Napolitano? Napolitano, penso che se non nasceva Napolitano, forse sarebbe stato meglio per l'Italia. Addirittura. Poi purtroppo è nato e io non posso. Purtroppo evitare... è nato Napoli. Il signor Gentiloni, il capo del governo attuale, il signor Gentiloni. Ascolta una cosa, sono quei bambocci là che mettono lì e gli dicono fai questo, prendi questo, togli questo, pulisci il bagno, pulisci il bagno. Pulisci questo. Quello, Gentiloni, cosa vuoi che valga come la carta igienica? Come la carta igienica, vale, signor Gentiloni? Sì. Ma uno non può. Sì. Parenzo, c'è la libertà di espressione? Chi cazzo oppure è che parla? Non arrivo a capire chi cazzo è che parla vicino a te. Signor Parenzo. Mandalo a cagare che mi ero già rotto i coglioni, Parenzo. Dai. A dottore è uscito, non può parlare con pezzo di melda padano. Non parla, dottore. Dottore è uscito. Non parla con pezzo di melda padano. Sei stato fortunato che quando sei venuto a Pordenone lavorando, sennò venivo giù a trovarti. Mamma mia, ma quanto sarebbe stato bello! Sarebbe stato bello guardarti in faccia e dirti quanto idiota sei! Bello guardarti in faccia! Guarda che te, tu non ascolta nessuno, dici solo cazzate di merda. 2,5 milioni di persone qua. Scusami, Ferdinando. Ma perché gli dici scusami? Ma perché stai dicendo? Perché io tratto tutte le persone allo stesso modo? Questo miserabile schifoso. Io rispetto Polegato. Ma cagare. Ma che cazzo è sto stronzo che parla? Ma perché scusami, non possiamo parlare cruciale? Parenzo, ma lei è stronzo pezzo di merda? Lei si chiama stronzo pezzo di merda? Che nome è? Ma io mi chiamami come vuoi, lei, io sono fascista. Detto. No, lei è fascista, un fascista, tu non sei nessuno. Solo un mentecatto. Io sono fascista, sono orgoglioso di essere mentecatto. Fascista. Tu non sei nessuno. Lei è un mentecatto. Lei è il protagonista del palio degli asini. Da dove? Ferdinando, ma c'è un'invasione di immigrati in corso, che bisogna fare? C'è un'invasione di idioti, e questo aspetta, testa di cazzo, ti parla sopra. Aspetta un attimo, poi intervieni. L'invasione di immigrati, c'è, che bisogna fare con questi immigrati? Mussolini aveva già visto 70 anni, 80 anni fa, aveva visto lungo. Siamo andati giù in Etiopia, in Libia, in Cirenaica, quello che è Etiopia, Tripoli, a Bengasi, Siamo andati lì, abbiamo portato lavoro, abbiamo cercato di insegnare. Ma tu non hai fatto cazzo? Colonialismo si chiama, colonialismo. E dunque dobbiamo insegnarli a lavorare nel loro posto, perché loro sono abituati in un certo sistema. E i barconi, quando arrivano i barconi da noi, che facciamo? Che dobbiamo fare con questi barconi? Allora, abbiamo la mafia che gestisce, paga. Ti spiego io come funziona. No, ci spiega lui. Ma mi posso parlare o no? Però scusami, Ferdinando. Ferdinando, scusami un attimo. Allora prendono, pagano. La mafia paga gli scafisti. Ma noi che dobbiamo fare? C'è la mafia, d'accordo, ma noi che dobbiamo fare? Abbattere questi barconi, portarli indietro? Che dobbiamo fare? No, noi non lo so. Dobbiamo prendere le nostre navi, devono prendere e riportarli indietro. Punto. E i rom, i campi rom, che fare con i campi rom? Sono gente abusiva che rimane dentro, che ti vanno a rubare nelle case. E quando li trovi, insegnargli l'educazione, dargli qualche bastonata. Dunque, quando qualcuno entra, cioè i rom, che gente, vorrei vedere che li venissero a rubare a casa tua, e tu gli dici: scusa, prendi su anche la televisione o la radio, prendo due calci di coglioni. Ecco, Parenzo, vai fuori, Parenzo, tu sei nato nel tempo sbagliato, che se nascevi in un tempo giusto non saresti neanche più lì a parlare. Questa la posso considerare vagamente una minaccia, visto che negli anni 30... Ma fai, che cazzo vuoi, non me ne frega una minchia. Posso considerarla vagamente. Ma gli zingari, come li consideri? Ma ti denunciami, fai, che cazzo vuoi, Parenzo. Ma non ti denuncio, tiro l'acqua, non ti denuncio. Non ho bisogno di denuncia. Tiro l'acqua e ho risolto. Tiri l'acqua, vai. Parenzo, piacere Parenzo. Come li consideri gli zingari? Ma questo qui, poverino, però è baccato in testa. Anche gli zingari, apriamo altro capitolo. Punto di vista, in una situazione di che ne nuocere le nostre famiglie, non possiamo lasciarli liberi così, che vadano a rubare nelle case e tutto quanto. E dunque che fare? Un controllo, devono avere un lavoro, devono avere una situazione dove si possono mantenerli. Io non sono d'accordo, mantenere le persone non sono d'accordo, io sono persone che dobbiamo sono mantenere sto idiota, pensa te. Ma c'è culo che io lavoro la mattina e la sera, sei tu che non fai un cazzo, Parenzo! Mi tocca pagare la sanità, questo qua. Io lavoro la mattina e la sera, io farò più di lavorare! Mi tocca pagare la sanità, questo qua. Mi tocca pagare la sanità, questo qua, pensa a te. Senti, se qualcuno. Ma io perché con i miei soldi devo pagare la sanità mentale di questo qui? Ma se uno entra dentro. Fai culo, sono io che lavoro per te e mi dispiace solo di mantenerti lì e fare un cazzo la mattina e la sera solo a parlare con quella lingua di merda che hai. Il prossimo anno mi candido come presidente della regione. Mamma mia! Mamma mia, presidente della regione! Signore, mi merita la gente! Andiamo col finale. Faccetta nera della piscina. Aspetta, che già l'ora sta vicina. Quando saremo vicino a te, noi ci daremo un'altra luce, un altro re. Ciao ragazzi! Ciao! Mi saluto, andate a cagare! Mandami a cagare, senti! Ma cos'è? Scusami la cosa! Senti, sento la puzza fino qua di Parenzo. Ciao! Ciao! Com'era la pernacchia, David? Com'era la pernacchia? Com'è che hai fatto al signor Polegato? Dottore, è andato a bagno, non so, ho sentito. Pronto, telefono che squilla, dottore, bagno. Trump ha detto pochi secondi fa, oggi, comunque l'immigrazione non è un diritto. Ragazzi, ha pienamente ragione. L'immigrazione non è un diritto. Ma chi è? Quale politico italiano ha il coraggio di dire che l'immigrazione non è un diritto? Detto, ha ragione Trampone, ragazzi, dai! Che è a capo del paese, che è nato, è ma chi se ne frega, roba vecchia, roba vecchia, la roba statua vecchia, della libertà. Roba vecchia, che cosa roba ha simboleggiato passata, quella roba statua? Basta, non ne posso più. Pubblicità. Adesso parliamo seriamente. Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il culo. La Zanzara. Cruciani, io faccio il cuoco. Il mio sogno è quello di uscire in sala, sedermi tra i clienti, sorridere e scorreggiare. Beh, caro David, questo cuoco è da apprezzare per la sua sincerità, per la sua estrema sincerità. Temevo lo dicessi. No, per la sua sincerità, per carità, mica è obbligatorio scorreggiare davanti ai clienti, per carità. Però sogno, dici, ricorrente. No, ma assolutamente no. Sai che c'è una piccola polemica che riguarda questo incontro tra Trump e la Merkel, no? Sì. Pare che la Merkel abbia detto a un certo punto, ma lei possiamo stringerci la mano? E Trump l'ha ignorata. L'ha ignorata la signora Merkel, la signora culona, l'ha ignorata, capito? No, una dei più grandi e bravi capi di Stato che abbiamo negli ultimi anni, che la abbiamo Merkel avuto in Europa. Cioè, Parenzo apprezza la Merkel. Moltissimo. Cioè, tu preferiresti essere governato dalla Merkel piuttosto che, ne so, da un Salvini? Beh, ma che scherzi? Te lo chiedo. Ma è ovvio. Sciocca la Zanzara. Meglio la Merkel di Salvini. Ma senza ombra di dubbio, cioè la Merkel ha rimesso in ha contribuito il dettaglio, a, a far diventare la Germania. Tu pensi che quel paese lì era un paese diviso a metà con un muro? E grazie alle politiche che hanno fatto quelli prima di lei, e grazie, è diventata una delle potenze mondiali la Germania. Quindi ha molto da insegnarci su come fare. Altro che. Cioè, tu preferiresti la Merkel governatore dell'Italia, che poi in parte lo è pure. Dalle mani pulite, persona per bene, si paga il suo piccolo appartamentino a Berlino, se lo paga con i soldi suoi, un appartamento di 80 metri quadri. È un esempio tra i politici d'Europa, direi quasi del mondo, ovviamente. Ma è così. Vorresti la Merkel dopo che magari non sarà più cancelliera della Germania? Ma naturalmente. Vorresti a capo dell'Italia, in pratica. Naturalmente. Naturalmente. Esatto. Facci su Napoli, numero uno, senti. Dunque, io scrissi che Napoli fa schifo, perché secondo me Napoli fa schifo per come è ridotta. È stata ridotta a uno schifo, una città bellissima per la sua storia, anche se appunto per dire che bellissima si risale sempre a cose molto vecchie. Se io dovessi scegliere tra una colf, ad esempio, napoletana o una friulana, io scelgo la friulana. Ma perché? Ma perché? Perché i popoli e le abitudini non sono tutti uguali. I friulani per me sono i più grandi lavoratori di questo paese, e i napoletani sono quelli che invece vanno più a travagliare. La scelta è questa. Mamma mia, ragazzi. Scegliere tra De Masi, che è un grande sociologo, di dov'è? È napoletano, è un grande lavoratore. Ma che c'entra? Ma come si fa ad avallare certi stereotipi? Dai, Filippo mio, su. Allora, dai. Facci dice, ma lo dice sinceramente, perché lo devi attaccare? Tra una colf friulana napoletana, messo di fronte a una scelta, è uno stereotipo. Vado sulla friulana. Ma ragazzi, ma perché uno non deve essere sincero? Ma no, sarà uno stereotipo. Ma sarà uno stereotipo. Ma lui dice: tra una Golf friulana e una napoletana, preferisco la Golf friulana. Ma negli chiusi. Anni 60, tutti quei lavoratori che dal sud venivano a lavorare al nord, ma lui alla parla Fiat, della cos'erano? Golf. Parla ma della cosa? Golf. Se uno deve scegliere una Golf per casa propria, ma lui ci ha messo di fronte dire? A una scelta. Ma che messo di fronte a una scelta, ma non ti rendi friulana. Conto che è uno stereotipo per le persone che non sanno? Stereotipo. Potete googolarlo. Stereotipo. Googolatelo. Allora, vogliamo ricordare che la signora Malena a Pio e Amedeo, durante una trasmissione su Mediaset, ha detto che è entrata nel PD. È entrata, poi insomma, fa parte di qualche organo del PD grazie al culo, dando via il culo. Sì o no? La vogliamo ricordare questa cosa o non la vogliamo ricordare? Come dici, scusa, non ho capito. L'ha detto lei, non è che l'ho detto io. È entrata nel PD dando via il culo, offrendo il culo, chiaro? Chiaro, te lo devo ripetere? Lo dice la signora Malena. È chiaro, Malena. Ma tu sei stata col PD, diciamo che sei stato o ci sei nel PD? PD. PD. PD. Ma per entrare come hai fatto? Perché è normale. Hai fatto a Matteo Renzi? No. A Bersani. No. Ma dai, ma io con questa faccia, ma ancora dai, questa storia. Allora, guarda, a partire che non hai mai fatto niente per entrare, addentrarti nella politica. Con la faccia no, guarda. Col culo sì. Ah. Ma secondo me è una battuta così, fatta così, l'hanno interpretata tutti in un altro modo, dai. Comunque. Danilo, provincia di Varese, vai. Danilo. Ciao, buonasera a tutti. Sì, vai. Allora, velocemente, una cosa veloce. Mi fa piacere che a Parenzo piaccia la Merkel, ma ricordo Parenzo che la Germania, rispetto all'Italia, tutela il suo popolo. Soprattutto in certe circostanze, cosa che non fa il nostro paese. Infatti secondo accoglie gli immigrati siriani. No, io parlo in generale. Vabbè, poi un'altra cosa. Sì. Se il Parenzo non capisce che la gente è esasperata, non perché la gente va a rubare, se lui va a fare una ricerca e va a vedere i giornali degli anni 80-90, in Italia bello. Forse c'erano gli stessi furti, ma non ammazzavano nessuno. E questa è la differenza. Da allora ad oggi, se tu entravi in casa e c'era il ladro scappava, adesso ti accoppa. È questo che forse Parenzo non ha ancora capito. Ultima cosa veloce, un paese democratico può funzionare solamente se lo Stato ha autorità e esiste un popolo civile che ha il senso dello Stato. Vabbè, d'accordo. Se no è anarchia. Vabbè, adesso non vuol dire niente, queste cose generiche. Alessandro da Latina, dai, Alessandro. Buonasera. Dimmi. Volevo dire due cose. Allora, la prima cosa vuol dire, due stagioni fa hanno espulso un tunisino a Latina che praticamente inneggiava la Jihad e cercava i due poliziotti per andargli a coppare. L'hanno preso e l'hanno rimandato in Tunisia. Allora io dico una cosa, no? Sì. Tutta questa gente che commette reati in Italia, che commette reati, ammazza, uccide, spaccia, fa, perché li prendono e li mandano, li condannano e li mandano a scontare la pena nel paese loro? Vecchia storia questa qua di scontare la pena nel loro paese, è difficile ogni tanto. Li devono mandare nel loro paese a scontare la pena, nel loro paese, in Italia. E poi un'altra cosa, io voglio dire a Parenzo, quando entrano dentro casa, queste sono come le bestie. Adesso quando entrano dentro casa loro sono armati, sono pericolosi, entrano per stuprare, per prendere. Abbiamo soldi, già detto, Bruno tutto. Ancona, Bruno vai. Crucio, io ho un problema e te lo dico subito. Dimmi. Sto con una MILF. Vai, stai con una MILF. Che vuol dire MILF? Non c'è problema. Mi riempie di soldi. No, ma dimmi cosa vuol dire. Quanti 45ina, l'aspetto. Tu quanti anni hai, scusa? Trentina. Quanto? Sulla trentina, però ho avuto. Aspetta, che ti sento male, Bruno. Ti sento male. Qui è molto importante questa cosa. Aspetta, è molto importante. Tu hai 30 anni e lei 45. Ci sono 15 anni di differenza. Ha avuto due figli da giovane, quindi c'ha due figli da mia che studiano all'estero, piena di soldi, non c'è problema. Cioè la classica MILF, che proprio tecnicamente una MILF. Quelle che, con cui ti ho fotografato anche a te, quelle con cui mi hai, non ho capito. No, però Bruno non si sente. Ragazzi, richiamate sto Bruno, che è molto importante questo discorso. Ho capito, ma che ti mantiene questa qua, è ricca? Sì. È ricca, mi dà pieno di soldi, non ci sono intrallazzi sentimentali. E allora? Va tutto e allora? Il problema è che lei ieri sera, ieri sera ha visto il programma di Lucci, ha visto una prostituta di Barcellona che aveva una cintura fallica, quelle cose come cazzo si chiamano. Sì, straporno. Adesso mi ha mandato una foto su WhatsApp e la vuole usare con me. Beh, io no, che ottimo un cazzo, io non voglio, Saluto anche l'altro che, visto l'argomento, non interviene nella telefonata, ma lo saluto perché comunque fa colore nella zanzara. Io Filippina, no puttana. Io occupale, occupale, pulire casa, buongiorno, dottore. Devi levare le occhiaie e non ti plepalale, io plepalale, colazione con scramble eggs per il dottore, succo di flutto. Dice. Dai, Crucio, sto parlando di cose serie. Chiudi il microfono a quello lì. Scusa, non ho capito una cosa, Bruno. Allora, questa qua praticamente 45 anni, molto ricca, 15 anni di differenza, ti mantiene in sostanza. Sì. O comunque ti paga un sacco di cose. Adesso non esageriamo. Comunque mi dicono che in realtà è una cougar, non tanto una milfa. Ma al di là delle delle definizioni, insomma, non è la cosa. Dice: vuole, però, ha visto il programma di Lucci, cioè Nemo, un programma che apprezzo anch'io tantissimo. E sono contento che tu l'hai guardato. E praticamente ha scoperto che c'è una a Barcellona che ha una cintura fallica, detta anche straporn. Non so se Parenzo conosce questo termine straporn. No, non conosci straporn. Non ho capito perché non ti che vuoi. Che cos'è esattamente? Perché se lo cerco. Lo strapon è praticamente una cintura fallica. Perché te l'ho chiesto? Ecco, adesso mi sto domandando perché te una l'ho chiesto. Una cintura fallica che le donne possono usare o con gli uomini o con altre donne. Una donna mette. Ho capito. Fallo di gomma. Però non lo vendono come inserto con il sole 24 ore. E fanno male. E fanno male. La domenica. Oltre all'inserto. Quando fa questi interventi inutili è un grande. Però limitarsi a questo, Parenzo, capito? Tu non puoi contare. Vabbè, ma lascia perdere adesso. Bruno, la squadra mia. Sì. Io mi capisco col Croce, Bruno, non con te. Va bene. Noi siamo affini, diciamo. Però, Bruno, io ti dico questo. Allora, perché non ti vuoi fare inchiappettare dalla tua donna? Ma guarda perché, che. Ma grazie. Ma che donna? Quale donna? Vabbè, amante, donna, quello che. Ma ho capito, magari ti sta ascoltando. Dai, chiamiamolo parcheggio. Ma come un parcheggio? Momentale. Dai, ma non puoi giudicare le donne in questo modo atroce. Un parcheggio, dai. Ma che atroce? Ma tu non l'hai sentita parlare? Lei parla peggio di me dell'aspetto maschile. Ma non ascolta la zanzara, perché non le facciamo una. Della cintura, no. No, non vuoi farti inchiappettare da questa. Scusami un attimo, ma a parte il fatto che ce lo stai raccontando, Parenzo, siamo molto contenti di questa cosa. Io non ne sentivo l'esigenza. Non è contento. Scusami, Bruno, però possiamo contattarla questa gentile signorina? No, assolutamente. No, che poi ascolta, a volte ascolta anche la zanzara. Pensa quanto sarà contenta di questa cosa. Lui invece sta comunicando. Stasera dice che non sta ascoltando. Sta comunicando a questa signora MILF italiana? È italianissima. Allora, non mi inchiappettare. Non voglio questo strapon. Non voglio questo fallo di. Soldi, capito? Io rinuncio anche ai soldi, ma sta cosa francamente no. Quella dottoressa che chiamate voi, quella delira, non fa di Nolfi, tutta sta gente qui è gente che delira, ma io no, però. Tu non vuoi essere inculato. Vabbè, d'accordo, ma io ti capisco su questo, per carità. Pertissimo a tutto. T'ho detto che potresti anche provare, non ci sarebbe niente di strano. Sì, ma non è che ti devi sentire, come dire, sodomizzato, dunque omosessuale, oppure. Ma non ma è non questo. Mi sento omosessuale, però no, cioè, dai, Crocio. Vabbè, Parenzo, è interessante. Ci ho chiamato per comunicarci questa cosa qua. Per comunicarci questa roba qua. Possiamo aprire un'avvertenza sindacale eventualmente per avvertire la CGIL? Mi saluti Capanna. Parenzo, mi fai ridere quando chiami Capanna. Me lo saluti. Sì, adesso vediamo se lo troviamo. Non è un jukebox. Esatto. Potrebbe diventarlo allora quando lei facesse un bonifico nel mio conto. Che io saluto il Sor Capanna. Ciao. Arrivederci. Cordialità. Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso. Andiamo avanti. La zanzara. Cruciani, viaggio di lavoro, Luxor, Egitto, hotel 5 stelle, entro in bagno, trovo il cesso che ti pulisce il culo in automatico, mi siedo, gran cacata mentre ascolto la zanzara e il cesso ti pulisce il culo da solo, siamo al top. Basta ridere. Cruciani, smettila di dire in radio che non ti cambi le mutande e i calzini, perché il mio ragazzo ormai non fa nient'altro, cioè non le cambia da 5 giorni. Fino a di sgommate pure. fa? Non vai alla Camera dei Deputati e li pisci nel lavandino? Beh, chiaramente, amici miei, siamo al top. Pisciare nel lavandino all'Hotel Hilton. Beh. Allora ragazzi, qui potremmo inaugurare una nuova rubrica se volete. Andate a fare i vostri bisogni in un posto prestigioso, prestigiosissimo, e pisciate nel lavandino. Beh, ma perché? Camera dei Deputati, Hotel Hilton, uffici dei vostri capi. Beh, bellissimo. Per no, sfregio, per sfregio. Che però... Musei famosissimi. Sì, però la cosa, adesso hai detto il nome di una catena di alberghi. In realtà oggi il non plus ultra sono le cosiddette dimore storiche che vengono poi adibite ad hotel, a resort di lusso. Ma quello che c'entra, qualunque posto, adesso quello era un esempio. Sì, comunque, però no, dimore è una grande rubrica, è una grande rubrica. È una porcheria. E fatene tutti, come direbbe qualcuno. Andate e fatene molta tutti, sì. nei lavandini ragazzi, nei posti più prestigiosi. Fermi tutti, torniamo tra un attimo con un ospite. Fermi. Che piscia. La Zanzara. Chicco. Allora, caro David, adesso dobbiamo affrontare un tema serio, un tema serissimo, perché fino adesso ci siamo divertiti, abbiamo scherzato, ma questo qua non è un tema così, certo. Piffero, non è una roba così da quattro soldi. Allora, qui abbiamo collegato una ragazza di 30 anni, di origine bresciana, ma risiede a Padova da diverso tempo, la quale a un certo punto si è vista, anch'io ho ricevuto questo video. Qualche settimana fa mi arriva nel telefonino della redazione un messaggio dicendo: oh, guarda, questo qua è lo stesso caso di Tiziana Cantone, e c'è la foto di una fellazio, la foto di un atto sessuale. Questo le immagini, un video molto breve di una ventina di terribile, secondi. Terribile per niente. Cioè, non è che ho detto: Dio, è terribile, non lo guardo, diavolo! No, perché magari lei non voleva venisse diffuso. Non c'è dubbio, quindi, È un video che ha fatto... Terribile, poverina, mi che ha fatto con uno che all'epoca frequentava, se è fidanzato o no, adesso magari ce lo spiega, e che poi è stato diffuso da lui, da alcuni amici, non si sa ancora esattamente. Dal maiale, dallo schifoso. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te, perché era un video assolutamente privato. Questa ragazza qui poteva, come dire, limitarsi a restringere il campo, poi si è diffuso questo video tra i suoi amici, è venuta allo scoperto e ha detto: io ho denunciato tutti. E voglio portare tutti in tribunale, non me ne frega niente delle conseguenze di quello che dico. Bravissima. E soprattutto non si vergogna di quello che ha fatto. Ovviamente non lo rifarebbe con la stessa persona, magari lo rifarebbe con altri, non lo so. Beh, che vuol dire? Ma è venuta allo scoperto, petto in fuori, faccia, e ci ha messo la faccia e ha detto: ma infatti lei non ha commesso nessun crimine, il crimine l'ha commesso quel maiale schifoso del suo ex fidanzato, compagno, non lo so chi sia. Allora, Elisabetta Sterni con noi, buonasera. Buonasera. Ciao, come stai? Ciao. Bene, grazie. Voi? Beh, non c'è male. Ci difendiamo. Sì, è venerdì, ci difendiamo. Allora, innanzitutto un abbraccio fortissimo a Elisabetta, che ha avuto le palle, anche se le palle non ce l'ha, di fare questa scelta qua. Perché non è una scelta semplice. Uno dice: una scelta semplice. No, non è una scelta semplice. Uno poteva stare zitto. Ecco, Elisabetta, spiegami una cosa. Ma questo video qua, esattamente, chi è che l'ha diffuso in giro? Ecco. Cioè, chi è che l'ha mandato in giro? Cioè, ce l'avevi tu e ce l'aveva questo fidanzato? Chi era un fidanzato? Uno che frequentavi? Sì, è un ragazzo che ho frequentato per 3 mesi e l'avevamo solo io e lui. L'avevate solo lui? Lui ha dato a qualcuno? Perché a me, come è arrivato a me? Ecco, questo voglio capire. Chissà come mai. No, a me non è arrivato. Qualcuno me l'ha mandato. Non avertelo mandato. No, tu non me l'hai mandato sicuramente. No, me l'ha mandato ma uno. Ma chiediti come mai è arrivato, ad esempio, a te e a me non è arrivato. Anche questo dovresti chiedere. Ma non mi è arrivato su un telefono, sul mio telefono. No, ma sono d'accordo. Ma chiediti come mai era indirizzato a te e non a me, ad esempio. Chieditelo però. No, ma me lo chiedo perché giustamente qualcuno ha detto può essere interessante come discussione. Certo. per questo non c'è dubbio. Esatto. Allora, chi è che l'ha diffuso, diciamo, Urbi e Torbi, Elisabetta? Facciamo 2+2, l'ha diffuso lui sicuramente, perché io non metto in giro determinate cose, no, intime. No, certo, tu non l'hai fatto sicuramente, ma lui l'ha data agli amici e dopo gli amici l'hanno diffuso anche loro, cioè è stata più o meno questa la catena, o no? Penso proprio di sì, sarà stata la ragazzata di voler far vedere, io mi sono fatto questa e da lì è partito tutto. Senti, io voglio capire una cosa, ma tu vuoi denunciare per quanti anni ha il suo ex fidanzato, insomma, questo ragazzo, questo ex compagno? 29. 29, più o meno la tua età. Dimmi una cosa, ma tu vuoi denunciarlo per spillarli fuori dei quattrini, per levargli tutto, come dice Parenzo, oppure così, per affermare un principio? Spiegami. Per affermare un principio, perché non credo neanche che guadagnerò molto da questa cosa. Beh, no, ma so, sicuramente non è quello il mio scopo, comunque. È una questione di principio che non voglio che succeda più ad altre ragazze. Brava. E magari facendo questa cosa tutti i coglioncelli che ci sono in giro si penseranno 2 o 3 volte prima di fare una cosa del genere a qualcuno. Sì, no, questo è importante. Bello. Questo è importante, ma tu com'è che l'hai saputo? Ho letto da qualche parte in un'intervista che hai fatto che praticamente a un certo punto tu lavori in una discoteca a Padova, ti ha chiamato il capo, il gestore di questa discoteca, sì, che è anche il tuo amico. Il gestore. Esatto. Sì, mi ha... Che è successo? E mi ha detto: guarda, che c'è un video che gira su di te. E io, video? Di che tipo? Oh, mamma. E da lì l'ho saputo, è stata una doccia fredda. Io sarei morto, guarda, lei è stata fin troppo... Cioè, praticamente a quel punto, una volta che è arrivata a questo gestore, eccetera, praticamente era arrivata a migliaia di persone, cioè questa roba qua. Sì, è arrivato persino sì. A me, te lo dico. Cioè... Beh, persino. Persino a me. Ragazzi, io nel numero di redazione... Vedi, è curioso, a te non ti mandano il discorso del Papa, oppure l'intervento a un convegno di Gali della Loggia, di Angelo Panebianco, l'ultimo discorso tenuto, ad esempio, da Roberto Napoletano, quello presentava il suo libro Viaggio in Italia. No, a te ti mandano i video video clandestini, appunto, di una ragazza che nella sua intimità faceva quello che doveva fare al suo fidanzato maiale traditore, che ora gli devono portare via tutto. Cioè lui deve, adesso che sente la trasmissione, deve sudare freddo, perché lui deve essere svergognato sulla pubblica piazza a Padova. C'è il Palazzo della Ragione, dove c'è la pietra del vituperio, si chiama, dove nel Medioevo le persone che venivano condannate venivano messe in mutande sulla pietra del vituperio davanti a tutta la città, a Padova, Palazzo della Ragione. Facciamo un po' di storia anche davanti alla città. Conosci il Palazzo del Vituperio, Elisabetta? No, Palazzo della Ragione, no, dove no, dentro non basta, c'è... non basta in mutande, io non le avevo le mutande, non è giusto. Vabbè, nudo. Dovrebbe andare lì nudo, sì, nudo sulla pietra nudo. Del vituperio si chiama, quella pietra del vituperio messo lì. Allora, il Palazzo della Ragione era il tribunale del Medioevo. Dentro il Palazzo della Ragione a Padova, tra Piazza dell'Erbe e Piazza della Frutta, c'è questa pietra del vituperio, dove appunto nel Medioevo le persone che venivano cacciate dalla città prima non venivano semplicemente allontanate, ma venivano proprio messe in mutande su questa pietra. Veniva convocata tutta la città di Padova. Vabbè, adesso tu diventi improvvisamente giustizialista, questo pagherà, no, quello che deve pagare. Deve pagare, però tutto. al pubblico ludibrio. Senti, Elisabetta, io non ho capito una cosa. Questo tizio qua, tu ci hai riparlato dopo? Cioè, mai più parlato dopo che hai saputo che questo video girava, eccetera? Sì, ci ha riparlato e lui ha addirittura accusato me. Te l'avevano preso dal cellulare, sarei stata tu, l'avrei mandato a qualcuno. A chi l'avrei mandato un video del genere? Cioè, ha accusato te di averlo mandato in giro, sì, praticamente. Cioè, sì, vabbè, sì. Comunque, quello poi... io... questo video non sarà più da settembre, da quando ho rotto il cellulare, di conseguenza è praticamente impossibile. Ma tu quando giri, al di là delle cose tecniche, eccetera, quando tu giri per strada, o giravi per strada, no? E magari qualcuno avevi un po'... il timore, cioè ti vergognavi un po'? La sensazione di essere guardata. Per me non c'è niente di cui vergognarsi, naturalmente. Però, per me no. Cioè, è un atto privato, è un atto certamente sessuale, ma quello che fanno tutti. Sì, poi, ma poverina, lei voleva che rimanesse tra di loro, quindi non voleva, non c'è dubbio. Quindi, certo che magari. Ti sei mai vergognata a girare per strada? Allora, mi sono vergognata comunque del fatto che mi ha visto nella mia intimità, vergognata del fatto di quello che ho fatto? Assolutamente no, non ho fatto nulla di male. No, ma di quello che hai fatto, cioè ti sei vergognata degli sguardi delle persone? Sì, ovvio, un pochino sì, perché pensi sempre, avrò visto il video, se mi riconoscono, se questo, se quello, non è carino. Ma è stato rimosso il video adesso, no? Ma rimosso da dove? Cioè, ma è stato messo pure nei siti porno? Sì, è stato messo anche in siti porno. Ma c'è ancora che tu ma sappia? Ma si può rimuovere o no? No, sì, c'è ancora. C'è ancora. Nei siti porno come che ne so, neanche video, a vederlo eccetera. Per non dare. Io spero che le persone che ascoltano non gli venga stimolata, come però dire, la curiosità quello di andare a vedere. Quello però è normale che succeda. Beh, normale è un corno. Ma quello è normale, che è la curiosità. Io ti assicuro, ti giuro, mi prendessero il telefono, non vado, ho visto la notizia, ma non sono andato a vederlo. Cioè, il comportamento Grazie, del singolo. Carino. No, non è carino, il comportamento, perché io mi sento male per lei, cioè il comportamento del singolo in questo caso può aiutare e sono molto serio, non è normale. Io ho visto la notizia e ti giuro, non sono andato e invito le persone non civili o per bene, non voglio aggettivare. Sì, però io non voglio condannare la curiosità. Non si alimenta quel mercato schifoso, perché chi fa il click sopra alimenta un mercato schifoso ed è come se violasse l'intimità di questa signorina che nel suo privato fa le cose bellissime e meravigliose che gli pare, che tutti noi facciamo, più o meno bene, ma no, se voi cliccate lì sopra state direttamente, non indirettamente, direttamente violando la sensibilità della signora Elisabetta. Allora, questo voglio dire. Questo è l'editoriale di No, David. Non è editoriale, davvero. Ma sì, tu rifaresti dei video con i tuoi compagni, con le persone che frequenti? Era la prima volta che lo facevi o ne hai fatti altri? Non era la prima volta, ma non è che ogni volta faccio video. Solo che non è tutelata questa cosa, di conseguenza chi me lo fa fare? Cioè nel senso che adesso ci penserai 100.000 volte prima di fare un altro. Assolutamente. Un altro video. Però non ti vergogni di avere fatto un video. Cioè il problema è che qualcuno è arrivato a dire, anche nel caso della Cantone o di altre cose, che poi si è scoperto che la Cantone è finanziato, in realtà sono stati loro a diffondere, ma lasciamo perdere questa storia. La questione è molto semplice. Uno, è normale, Parenzo, mi dispiace per te, farsi dei video nell'intimità. Sì. È assolutamente normale. Tu l'hai mai fatti dei video, Parenzo, con delle donne? Non l'hai mai fatti? Vabbè, d'accordo. Dottore è andato alla cena, aveva cena alle 8:30, dottore, noce. Ma dai, su, adesso puoi rispondere a questa cosa, se hai fatto o no. Cosa vuol dire dei video? Hai fatto dei video intimi con la tua... No, qualche volta. No, non mi, vabbè. Non mi pare. Ma non è uno scandalo dirlo. Ma io ne ho fatti, ho fatto, naturalmente. Tu, amico mio, ma questa non è una notizia, però. Sì, no, io ne ho fatti, però. Ma tu avrai un'intera... Si chiama YouPorn Cruciani. No, ti sbagli, Un canale ad hoc. Ma no, ho fatto qualche video. Però, per fortuna mia, l'ho fatto con delle persone che se lo sono tenuti, non lo so che pensa quanto valgono quelli. Ma nulla valgono. Non valgono nulla assolutamente. Che devono... Comunque la cosa interessante che dice Elisabetta è un'altra. Elisabetta sciocca dice: la zanzara, Cruciani, ho fatto dei video porno e c'era anche Prodi. No, ma che Prodi? Ma loro lo mettono lo stesso. Loro lo aggiungono così. Senti, loro tu hai mai detto quella frase che ti hanno un po' rimproverato? Non voglio fare la fine di Tiziana Cantone? Assolutamente no, non mi sarei mai permessa di fare il suo nome. Ho semplicemente affermato che c'è stata una persona che si è tolta la vita, sì. E nonostante ciò continuano a fare questi giochetti, a condividere. Perché la catena la possiamo fermare tutti non condividendo il video, non è solo la persona iniziale. Luca, quello perché c'è stata un'intervista di Repubblica che ti ha detto: in un'intervista a Repubblica hai detto: mi ha molto colpito la triste storia di Tiziana. Quando mi sono trovato nella sua stessa situazione, ho pensato che dovevo necessariamente tirare fuori qualcosa di buono da questa storia. Cioè, tu la frase "non voglio fare la fine della Cantone" l'hai pronunciata, sì o no? No, assolutamente. Comunque, ragazzi, anche perché sì, si vede dal video che io avevo messo in Facebook inizialmente, che io non ho fatto nomi. Qualcuno ha detto che tu poi sei venuta fuori per esibizionismo, per ricavarci delle cose, della pubblicità, eccetera, eccetera, per essere presente sul mercato, diciamo, sul mercato dello showbiz, chiamiamolo così, anche se poi in realtà non è che non sei in nessun mercato perché lavori in una discoteca, è vero o no? Sì, c'è chi ha detto questo, ma le cose, se non si credono ora, si sentiranno col tempo. Fermi perché... tutti, grazie Elisabetta, grazie. Grazie, grazie. Ciao, abbracci, mi raccomando ragazzi, i video si possono fare, bisogna fidarsi delle persone però, fermi tutti. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità. A belli. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Volevo informarvi perché non vi succede anche a voi quello che è successo a me. Risulta che poco fuori Milano, in un centro commerciale Carrefour, quando tu esci per mettere in macchina la compra che hai fatto, si ti avvicinano alla macchina due bellissime ragazze, incominciano a pulirti il cristallo della macchina, il parabrezza, facendo gesti sensuali e facendo quasi uscire per caso una tetta dalle magliette molto succinte. Quando hanno finito di pulirti i cristalli, tu gli offri una mancia per debitarti e loro rifiutano cortesemente, chiedendoti come unico favore solo di portarle al piazzale del Carrefour dall'altra parte della città. Si siedono di dietro sulla tua macchina, mentre tu guidi vedi dallo specchietto che incominciano a avere delle posizioni lesbiche fra di loro, e quando arrivi a destinazione, per ringraziarti anche del passaggio, una delle due viene davanti e ti fa un pompino mostruoso che ti lascia senza niente. Mentre tu sei impegnato nel lavoro, fra virgolette, l'altra di dietro ti ruba tutte le borse della spesa, il pane, la carne, il latte, il caffè, gli yogurt, eccetera, eccetera. Io vi avviso perché a me è successo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì due volte, venerdì, e sicuramente mi succederà anche domani. Allora, questo è un genio, io pensavo fosse vero. Sì, ma a un certo punto, quando mi è arrivato questo messaggio, pensavo fosse tutto vero. Dice, cazzo, sì, chissà quale truffa, no? Hanno esatto, architettato esatto, queste due. Esatto. Allora, dove andiamo? Nicola da Ravenna, poi Reda da Novara. Simpatico, sì, maiale. Ciao, ma ciao. Dire maiale, dai. Giuseppe, mi ascolti un attimo? Sì, dimmi Nicola, dimmi. Ma ti rendi conto che sei un fascista latente, nazista? Ma io, madonna. Guarda, sono tutto tranne che fascista e nazista. Ma non è vero, io capisco che tu voglia fare spettacolo e che voglia sentire esattamente le frasi dai politici o dalle persone fasciste che chiami, ma io mi meraviglio più di te, che sei un coglione, di Parenzo, che è ebreo e che sta lì di fianco a te, e che non interviene mai, fate sentire veramente mai. Interviene sempre, veramente. Non interviene su di te. Ma io per me, perché io ho un'idea che è quella della libertà di espressione pure per i fascisti, pensate, per i nazisti, pure per te. Pure per te che mi dai il coglione. Anche per te che mi dai qualcuno attacca. Come te, sono, scusa, il contrario. Autoreferenziale. Ma parla come mangi. Parla come mangi. Ti ascolto tutte le volte apposta perché mi piaci tu un sacco. Però siete dei coglioni, tutti e due. Sì, siamo dei coglioni, certamente. Ma noi vogliamo essere dei coglioni. La campagna politica che fate di continuo. Perché te alla fine lo so che. Noi che cos'è che facciamo? Tu odi i negri, tu odi gli io zingari. Io odio i negri e gli zingari. Sì, assolutamente. Guarda che lo sappiamo tutti che sei fatto così. Sì, a te piace fare spettacolo, a te piace farti la faccetta pulita, quando vai in giro in radio così, ma poi in realtà tu sei un fascista. Sì, bene. Ma della Hai detto la tua? Hai detto le tue minchiate della serata? Sì, benissimo. Reda da Novara, ciao, vai a fare in culo. Reda da Novara, vai. Reda. Sì, buonasera. Volevo parlare con Cruciani. Direi che il libretto di espressioni non c'entra niente, che tu offendi i profeti, offendi il Papa. No, fermo. Reda, no. Tu che sei muslim innanzitutto? Lascia perdere, sono muslim islamico, perché è un sei muslim o no? Tu essere muslim, essere musulmano italiano. Musulmano italiano, bene. Convertito oppure di origine egiziana. Benissimo, ottimo. Sei italiano, di origine egiziana, ma sei italiano, ma io non ho nulla contro di te, perché ce l'hai tu anche sempre con Salvini. Guarda che Salvini non arriva mai al potere, inutile leccare il culo a Salvini, perché non arriva mai al potere, ti dico io. Forse arrivano i musulmani prima. Arrivano prima i musulmani. Dove arrivano questi musulmani, amico mio, a conquistare l'Italia? Arrivano in Parlamento, il Partito Islamico. L'altro giorno c'era un giornale che titolava "Arriva". Hai sentito? E tu vuoi questo Partito Islamico che arriva, no? Giusto? Guarda, che io contro la violenza, contro la guerra, il cazzo dell'Stato proclamato Stato Islamico, perché non esiste. Stato ebraico, il nostro Parenzo, mi capisci? Tu sei, pensi che Israele sia una massa di che cosa? Di nazisti in Israele? Certo, non è nazista, è un paese terrorista. Scusami, è un paese terrorista. Adesso vuoi parlare con Luciano, si incazza, il zingaro si incazza. Chi perché zingaro? Lui diventa sempre zingari. Lui non ha capito, come è arrivato il banda ebrei, come sono arrivati, hanno mangiato Palestina. Palestina, mi prendi per il culo, Crociani, perché sei ebreo, questo è parenzo, veramente. No, perché mi ricorda tanto l'ex ambasciatore palestinese in Italia, per cui stato israeliano essere stato terrorista in pratica. Ma che terrorista? Ma terrorista di che? Terrorista, Hamas è governato da terroristi. Adesso non c'è altro. Perdere, perché tu non puoi andare nel dettaglio, perché Hamas diventa su terra, non è come gli ebrei che hanno tu continui a parenzo, tu continui a dire il colonialismo, cosa vuol dire? Ma Israele come è nata Israele? Israele, come è nata? Che è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite nel 1948 per promessa di Balfour. Voi dovete dare terra a Palestina. Dovete baciare il culo di Hitler. Voi dovreste rimboccarvi le maniche nella striscia di Gaza e anche in Cisgiordania e cominciare a costruire delle imprese, delle fabbriche, delle cose. Invece a Gerusalemme o a Tel Aviv dovreste non imbottirvi di tritolo, ma imbottirvi di idee. Manda Israele, non ci sono. Sei uno che prega di solito, Reda. Guarda che non prima pregavo, adesso prego poco niente. Ma infatti però, tu essere prima finto, pregavo. Finto muslim, prima pregavi. Dunque, non è finto muslim, sono sempre musulmano, Occhio musulmano. Dunque Allahu Akbar sempre. No? Anche tu stai sbagliando quando dici Allahu Akbar. Allahu Akbar si dice quando c'è la vincita, non è Allahu Akbar con scelti di merda come lo stato di Parenzo, loro matano gente, non c'entra niente con l'Islam. Occhio. Sì. Attento, Allahu Akbar, sempre. Allahu Akbar, com'è che si dice? Adesso tu continui a prendere il culo e lo come si pronuncia questo Allahu Akbar? Maometto, a me impazzisco con la figura di Maometto. Ma perché anzitutto non si chiama il Muhammad, profeta. Si chiama Muhammad, non si chiama il profeta Muhammad. Tu, Crociani, puoi parlare uno può credere nel profeta Muhammad, dai. Ma cosa dici? Vabbè, ciao Reda, ciao. Arrivederci, ciao. Saluti. Dischitalia. Ascoltatori durante la trasmissione di Nicoletti, sentite. C'è una macelleria che è un po' un punto di, diciamo, di non ritorno in zona, no? Che tutti guardiamo sempre. Morale, insomma, qualche giorno fa esce da un furgone trainato da questi cinesini piccolini. Perché poi degli Umpa Lumpa. Così escono con questa carcassa di questo animale che io sono praticamente certa fosse un cane. Perché non è una pecora, perché non è un agnello, perché ha le zampe, cioè, insomma, c'aveva il collare ancora per caso. Forse il microchip, non lo so, però io ero pietrificata. Tu hai visto gli Umpa Lumpa del quartiere cinese di Milano con un cane sicuramente. Quartiere cinese a Milano, forse cucinano i cani secondo questa signora. Bisogna fare delle indagini. Un'amica cinese che vive in Italia ed è praticamente italianissima, che lei mangia il cane, mi ha detto che il cane è buonissimo. I cinesi lo mangiano, c'è una festa nazionale che mangiano i cani. Sì, ma lei vive in Italia, quindi il cane se lo mangia in Italia, io non per questo che voglio dire. Ah, quindi c'è, diciamo, una somministrazione clandestina di cani per amatori di cani. Ho detto, e guarda che la costina è buonissima, dico grazie. sala i camerieri, particolarmente diciamo gli extra, questi che vengono chiamati diciamo come complemento, no? In occasioni gli stagionali, nelle feste comandate eccetera, e, appunto nei miei ricordi erano grandissimi consumatori di cocaina. I camerieri cocainomani. Vabbè, non è una grande scoperta questa. No. Va bene ragazzi, Rita da Napoli, no, anzi no, che c'è? Bruno da Lucca, poi Mario da Brescia, tanti ancora, eh? Vai Bruno. Bruno, vai, sì, dimmi. Mi senti? Sì, dimmi. No, voglio dirti, mi dovresti far capire tutte quelle cazzate che hai sparato ieri sera, mi sembra, sul sì, Papa. Sul Papa, sì, che ho detto sul Papa. Fai, scusami, ma che ho detto? Che ho detto? Devi fare audience. Oppure lo fai perché tu pensi di perché sei esagerato, perché per quello che ha detto il Papa non meritava assolutamente tutte quelle cagate che tu hai detto su di lui. Se tu lo fai per fare, per alzare l'audio, tu me lo dici che allora, Bruno, non stai... ti ascolto più perché sì, non mi interessa proprio. Ma io ma cazzate, tu puoi fare, puoi decidere come ti pare. Io ho detto semplicemente una cosa, ho detto, se non ricordo male, tu ti dovresti risentire quello che hai detto. E dimmelo, ricordamelo tu, dato che hai chiamato ma stasera. Io ero in macchina. Non lo sai nemmeno. Mi ricordo solo che ero in macchina, sì, e mi ha dato fastidio. Ho detto che il Papa parla a Bambera. Il Papa non parla mai. Parla di occupazione a Ski Italia, come ha detto lui, a Ski Italia. Vabbè, che e non si dovrebbe occupare di queste cose qui. Si occupi di altre cose, non dell'occupazione. Il fatto che il Papa non dovrebbe occuparsene è una cosa, ma che tu sei così irrispettoso. Ma a me non me ne frega niente. Per me il Papa è uguale al Divino Telma. Il Papa è esattamente uguale al Divino Telma. Ma non, il Papa è certamente una persona normale come tu. E allora è giudicabile come tutti, e se dici una cazzata lo dico, no, punto e basta. Non è giudicabile l'irrispettosità che tu ma hai che avuto. Ma che vuol dire l'irrispettosità? Ma che siccome sei una persona che io stimo per il lavoro che fai, però se quando sei esagerato così, io lo sai che a chi ti paragono delle volte? A Vittorio Sgarbi, che è una persona super intelligente, ma delle volte prende delle posizioni e inizia a indieire contro di tutti, ma se io diventa ridicolo. Ma scusa, diventa non ho capito. Ridicolo. Per me, ragazzi, la parola del Papa è uguale a quella di qualsiasi altra persona. Non gli do un valore particolare. Ma rappresenta un'istituzione. Ma basta con queste banalità. Se tu pensi a un punto di riferimento lì, perché uno è nominato dallo Spirito Santo in un conclave, sono cazzi tuoi. Se tu pensi che il tuo punto di riferimento, uno dei tuoi punti di riferimento, sia un signore nominato dallo Spirito Santo in un conclave con i cardinali, ma perché no? Se tu pensi che questo sia un punto di riferimento, sono affari tuoi. Per me è uguale al Divino Telma, è come Napolitano, è come un altro. Ma se non mi interessa, capito? Io dico quello che penso. Se per te non è piacevole, passa ad un'altra roba. Quello che pensi, se pensi una cazzata, tu la dici lo stesso. Ma questa secondo te è una cazzata? Io te lo lascio dire. No, il modo come tu ti sei rivolto verso il Papa è una grandissima. Tu pensi che sia una cazzata, io te lo faccio dire. Apro i microfoni per farmi tirare anche da te le pietre in testa, perché dici che sono irrispettoso. Perché va benissimo, per dire. Proprio una mazza da baseball in bene, testa, dammi una mazzata in testa, dai, Gianluca. Ma neanche perché non vale. Quello che tu hai detto non vale niente. Gianluca da Roma, vai. Gianluca da Roma, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi, veloce, vai, veloce. Niente, volevo dire da Ramingo la mia umile opinione riguardo le case chiuse, che dovrebbero chiamarsi case simposio, essere regolamentate, così le donne sarebbero anche non in mezzo alla strada, ma bla bla bla, tutelate, eccetera, eccetera. Case simposio. E inoltre, che cazzo vuol dire, ragazzi? Ma in Svizzera si chiamano Globe, in Austria si chiamano con nomi esotici. Vabbè, si chiamano come si chiamano? Olimpo, Welcome, che ha un doppio senso. Cioè, si chiamano tutti con nomi simpatici. Qui c'è l'oceano, c'è il come si chiama quello là, Chiasso. Oceano, il Moulin Rouge, c'è un altro vicino al confine svizzero che si chiama, come si chiama? Potrebbe chiamarsi come si chiama? Maxim. Uno potrebbe chiamarsi anche Vieni Pure. Tuttavia, il Calipso, il fatto di fare l'amore, dimmi. solo pagando, solo ed esclusivamente sì, allora, pagando in qualsiasi situazione, non solo con le prostitute. Questa è una tristezza che sta portando il mondo nella spazzatura. Ma quale portando il mondo nella spazzatura? Ma basta che c'è soldi, grazie al cazzo che sei a Casanova. Io voglio ma che una donna fa l'amore con me perché si affascina il mio fascino. Bravo, mio vedi che siamo in tanti. Maggioranza silenziosa, charme. Bravo. Senti che diaframma. Bravo. Vabbè, va. Ciao, ciao Gianluca. Ciao, ciao ragazzi. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo quando? Bene. Lunedì? Ciao. Forse, vediamo. Ciao, ciao, ciao. Tutte quelle cazzate che hai sparato l'hanno ieri sera, mi sembra, sul Papa. Voglio capire se tu lo fai perché devi fare audience. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Ma io mi meraviglio più di te, che sei un coglione, di Parenzo, che è ebreo. Chicco! Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.